Fulminati in azienda. Allora signori, è l'ora di decidere chi tagliare. Qui siamo in troppi, il costo del personale è insostenibile. Qualcuno deve restare a casa, se no la nave non plana. No, te prego, la metafora dell'equipaggio non si può sentire più. Ma come? Dicevi che andava tutto bene, che a noi la crisi non ci avrebbe fatto un baffo, ma invece come? E adesso si capisce che anche a noi la crisi ci ha fatto barbe e capelli. Ma non invece. Capisco. O era vero che non c'erano problemi prima, o è vero adesso che siamo messi così male. Sì, però Marta, anche tu, dove vivi? Come hai potuto credere che le cose andassero realmente bene? Inconcepibile. Ma perché lo diceva Marco, il nostro capitano? Io gli credevo. Marta, tranquillizzati. Adesso non è che siamo messi così male. Certo, gli azionisti ci impongono di fare un po' di dieta, però non è che siamo alla fame. Ah, ma allora, ma se è solo questione di dieta, penso a tutto io. Reimposto il menù macrobiotico della mensa e vedrai che in 3 settimane il peso medio dei dipendenti scenderà di almeno il 5%. Paragone, fammi un piacere, organizzami un piano per abbassare il peso del personale, dai. Perché sono ingrassati? Uè, ma sei scemo, ma basta, non ti ci mettere anche tu adesso. Già la fonfa ora chiede a mercante. Quelli delle risorse umane non sanno che pesci prendere. Centrifuga, come al solito, mi fa il sarcastico. Credo di capire che il tuo management non voglia comprendere il momento di crisi che bisogna affrontare. NCS, non ci siamo, Paragone. Non voglio più sentire la parola crisi. Ne siamo usciti, hai capito o no? Siamo già in fase di ripresa. Riprese? Vabbè, ripresina, dai. Ci manca ancora qualche piccolo accorgimento per rimettere a posto i conti. Credo di capire che allora, con qualche piccolo accorgimento, metteremo definitivamente a posto i conti. Così mi piaci, bravo. Quando mi rubi le parole di bocca, vedi che se ti impegni mi sei d'aiuto. Allora dimmi, super consulente, che cosa devo fare? Per mettere a posto i conti? Sì, e per togliermi dal collo gli azionisti che ormai sono alle minacce. Ma ti rendi conto? Ma dopo che ho portato questa azienda al suo attuale splendore, cosa fanno? Minacciano di tagliare proprio me. Ma ti immagini che perdita sarebbe per questa azienda? Ma, d'occhio e croce, in effetti, senza il tuo costo annuo, i benefit e i bonus, il bilancio tornerebbe inattivo in un colpo solo. Signori, amici, colleghi, come sapete mi vedo costretto ad abbattere i costi del personale per far tornare i conti in attivo. Ma Marco, non ci fa preoccupare, c'è una faccia, sai. È per questa ragione che vi ho riunito per comunicarvi la decisione presa. Presa? Ma come presa? No, dico, come puoi decidere del personale senza coinvolgere la direzione del personale? Schedula, Marco. Ti prego, stai tranquilla. La mia decisione non lede in alcun modo le persone che lavorano con noi. Lede piuttosto me personalmente. No Marco, scusa, non penserai mica di... Dopo 1000 controlli incrociati, aiutato dal super consulente Paragone, ho capito chiaramente dove e come bisogna intervenire. C'è un costo che, se abbattuto, ci porterebbe diritti alla parità di bilancio. Ma no Marco, io prima scherzavo, non intendevo, era solo una coincidenza tra l'entità del buco e le tue effettive... Dopo anni, e dico anni in questa azienda, ad affrontare insieme la buona e la cattiva sorte, è venuto il momento di separarsi. Ma come separarsi? Hai appena annunciato la crisi, ma cosa succede? Io mi dispiace, Marta, non soffrire così dispiace anche a me. Però dobbiamo essere adulti e prenderci le nostre responsabilità. Ma scusate, me volete spiegare? Non ci sto a capire niente. La crisi è responsabilità, ma che è sta cosa? Scusate, signori, posso spiegarlo io. Il vostro comandante sta mettendo in atto un vero e proprio atto eroico per non far affondare la nave. Ebbene sì. Ebbene sì, cari signori, mi libero di un carico ormai troppo pesante. E quindi rinuncio alla consulenza! Ma come? E allora? Alla consulenza! Vuole rinunciare alla consulenza? E così, chiedo scusa, voglio finire il discorso, salvo tutto il mio equipaggio! Bravo, ma dai! È una vergogna! E quindi, caro il mio Paragone, fino a settembre sei a casa e poi si vedrà! Vergogna! Ah, ma lo sai che sei stato proprio gagliardo sul pezzo, finalmente una cosa coerente, bravo! Carissimi, vi ringrazio, sono contento che vi è piaciuto la decisione, arrivederci bello. Forse a Paragone e noi tutti insieme a remare. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.